Cosa vuoi, cosa fai se non ti piace il clima? Cosa dici di sapere adesso ma non prima? Che vivessi nella brulla, mia fantasia fasulla. E lo so che lo sai che tu dici bene, che la vita non è solo stare sempre insieme. E mi vorresti più scaltro, magari come quell'altro. Che bravo! Che aveva fantasia e ti portava via e ti faceva far le cinque senza sbagliare. Tutto il contrario di me, tutto il contrario di me, tutto il contrario. E conosceva il bar e frequentava i pub e salutava per nome tutti i camerieri. Tutto il contrario di me, tutto il contrario di me, tutto il contrario. Che lo sai come me che si vede bene quando l'ira nel tuo sguardo più non si trattiene e ti si svita in fondo al cuore la vitarella dell'amore. E guardi me e pensi a te, a come sei cambiata e alle cose che facevi quando innamorata. Di lui con lui gli amici uscivi, vi sentivate così vivi. Ebbene, e aveva fantasia e ti portava via e ti faceva far l'amore senza respirare. Tutto il contrario di me, tutto il contrario di me, tutto il contrario. E conosceva qua e socializzava là e si integrava a meraviglia con tutta la gente. Tutto il contrario di me, tutto il contrario di me, tutto il contrario. E ti diceva stasera ci prepariamo e partiamo, prendiamo le valigie e l'autostrada. Dovunque vada, la seguiamo, andiamo e il nostro istinto ci porterà in montagna, al mare, a sentire suonare, a giocare, a mangiare, a bere, a ballare. E conosceva benissimo la programmazione, nenè, e dei concerti e dei film e quindi entrava in azione, nenè. Uscivate la sera e cominciava a guidare, nenè. Tu ti fidavi di lui e ti lasciavi cullare, nenè, nenè, nenè, nenè, nenè. Tutto il contrario di me che ti faccio annoiare, nenè. Che una folle di amici e non ti porto a ballare, nenè. Tutto il contrario di me che non ho iniziativa, eh. E che ti faccio tuonare finché tempesta arriva, arriva, arriva. Tutto il contrario di me, tutto il contrario di me, tutto il contrario. Tutto il contrario di me, tutto il contrario di me, tutto il contrario. Tutto il contrario di me, tutto il contrario di me, tutto il contrario. Tutto il contrario di me, tutto il contrario di me, tutto il contrario. E poi cominci il tuo inventario, sei un po' meglio di Mario, peggio di Rosario, e a cucinare era più bravo Dario. E sul sipario che mi reciti che non sono vario e che mai un cinema, mai un teatro, su un dromedario, ma che ci andiamo a fare? Lo vedi, non mi ami, Carlo ci voleva andare. Ma io ti amo, te lo giuro, te